ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Cercheremo nella seconda ora di fare un punto della settimana che si è appena chiusa, non tanto sul tema scuola, l'abbiamo fatto quotidianamente, lunedì tornerà anche l'appuntamento con Maria Piera Ceci, tutti a scuola nel programma di Alessandro Milan, ma sull'altra notizia, a mio avviso molto importante, della settimana, quindi il discorso dello Stato dell'Unione della Ursula von der Leyen, che oggi è tornata a ribadire che sui migranti servono nuove regole e oneri condivisi tra i vari paesi, ma per quello che riguarda i temi più inerenti a questo programma ha anche chiarito come dovrà essere ripartito, diciamo così, il Recovery Fund, il 37% per la transizione verde, quindi verso maggiore sostenibilità, e il 20% per il digitale. Parleremo anche, visto che domani riparte la Serie A, non certo del campionato, c'è il programma Tutti Convocati che se ne occupa egregiamente ogni giorno e anche la domenica, ma i conti della Serie A, conti già non messi bene, aggravati anche da quello che è successo con il lockdown e soprattutto con i diritti, che quello su cui vivono poi i club calcistici. Torneremo anche a occuparci di alcuni settori, lo facciamo settimanalmente, oggi la volta dell'autotrasporto. Il tema resta l'aumento delle accise, un tema che abbiamo sollevato anche a Radio 24 con l'intervento prima del governo e poi anche dell'Unione Petrolifera Italiana. Il timore è che di fatto il venir meno di un insieme di incentivi porti a un aumento delle accise sui carburanti, soprattutto sul gasolio da autotrazione. E per quello che riguarda invece, citavo la von der Leyen, lo faremo con l'Uccellaccio che torna a trovarci dopo la pausa estiva, quindi Giulio Sapelli. Parleremo di questo, ma anche di quello che sta capitando alle metropoli. A me sembra che nell'intero piano europeo, per quello che riguarda la trasformazione della Next Generation, manchi non il tema infrastrutturale che c'è sia sul fronte digitale che sul fronte invece fisico, ma anche in questo momento nel dibattito si è un po' scomparso il tema di che cosa sta capitando ai grandi centri urbani. Questo nel giorno in cui i nostri GR vi hanno raccontato che per esempio anche Londra rischia di dover far parte di questo secondo lockdown britannico, molto diverso da quello italiano, molto più morbido, ci mancherebbe. Poco fa però in Italia i contagi sono risaliti a 1907 in 24 ore con 10 vittime. Però dicevo, parleremo degli scenari economici e anche di scenari metropolitani da questo punto di vista, non solo lo smart working ovviamente. E per quello che riguarda invece, visto che si parlava di infrastrutture, oggi, cioè ieri, il fondo australiano Macquarie ha confermato l'offerta a Enel per 2 miliardi e 650 milioni per rilevare il 50% di Open Fiber, la società che, costituita nel 2015, ha l'obiettivo di accelerare la copertura dell'Italia con una rete di fibra ottica. Sappiamo che nel frattempo c'è un'altra partita, perché è la partita su FiberCorp, e quindi la società in cui confluiranno la rete secondaria e primaria di TIM, perché allora, per la creazione di un'unica infrastruttura spingono con forza il governo e il Ministero dell'Economia e Finanze e vogliono utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti come acceleratore di questa integrazione. Però chiaramente c'è il ruolo anche dell'offerta Macquarie e c'è l'incognita dell'antitrust europea, che ancora, diciamo, resta sospesa nel giudizio. Ha detto infatti la Vestager: valuteremo se il soggetto unico sarà indipendente. A noi non è stato notificato nulla ancora quanto alla costituzione di una rete unica in Italia, quindi, ha detto oggi la Vestager, non ho dettagli da discutere. Di questo parleremo, visto che parliamo di infrastrutture. Partiamo subito con una buona notizia, che in realtà oggi è stata ripresa, anche se il via libera è arrivata ieri. Buona notizia in un periodo in cui sicuramente le notizie buone sono poche. Perché? Perché la Banca Europea degli Investimenti ha stanziato con la più grande operazione mai approvata nella storia per un singolo progetto, un finanziamento di 2 miliardi di euro, praticamente a tasso zero, per l'alta velocità da Napoli a Bari, quella che dovrebbe portare il collegamento da Napoli a Bari a 2 ore anziché le attuali 3 ore e 40 minuti, portando poi il collegamento da Bari a Roma a 3 ore a quel punto. Il progetto è già avviato con i primi lavori. Tra l'altro, da questo punto di vista, praticamente l'opera complessivamente costerà 6 miliardi e 200 milioni di euro. Ad accedere ai fondi messi a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti sarà il Ministero dell'Economia e Finanze, che a sua volta girerà il finanziamento alla società Ferrovie dello Stato. Tra l'altro, ieri sera il commissario straordinario ha firmato il bando di gara per l'ultima tranche di lavori per un valore di 560 milioni di euro. Il tracciato, dove viaggeranno anche merci, prevede anche gallerie, molto lunghe, da 25 chilometri. E nel tratto più veloce si raggiungeranno i 250 chilometri orari. La consegna completa dell'opera è fissata per il 2026. Le FS assicurano che i lavori stanno andando avanti secondo il programma. C'è la prima tratta Irpinia-Orsara, che vale 1,5 miliardi, approvata nella sua versione finale a giugno, e poi, dicevamo, aggiudicato l'appalto del secondo e terzo lotto della tratta Frasso-Telesino-Vitulano, e poi nel 2023 partirà il primo treno diretto tra Napoli e Bari. Il tempo di percorrenza già inizierà a essere più ridotto, nel senso, man mano che le tratte vengono realizzate. Lo dico perché, visto che parliamo sempre di investimenti in infrastrutture, di concludere l'alta velocità, la T, diciamo, a due gambe a sto punto, deve essere conclusa nel tratto Milano-Venezia, poi con l'alta capacità Venezia-Trieste, e poi a questo punto anche da Napoli verso Bari. Poi c'è l'obiettivo, ricordo, di portare il tempo di percorrenza dei treni da Roma a Reggio Calabria nelle stesse ore che ci mettono da Torino a Reggio Calabria. Lì vedremo. Però, insomma, è importante che sia arrivato un finanziamento del genere dalla Banca Europea degli Investimenti. Ci tenevo a citarlo proprio in apertura del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, c'è un ascoltatore che mi dice: sto ancora aspettando le sue scuse alla ministra Azzolina. No, guardi, aspetterà a lungo, perché io non ho cambiato idea sui tempi, sui ritardi con cui il governo, a partire dal ministro Azzolina, si è preso a giugno per stabilire poi cose che, insomma, non sono sembrate rivoluzioni copernicane, e quindi le mascherine in classe, la misurazione a casa, poi ieri il TAR ha detto no, sì, può effettuare anche a scuola, i banchi con le rotelle, che tanto non sono arrivati, con buona pace del commissario Arcuri, ma non perché non si riescono a fare in tempi così stretti. C'è ancora un problema di approvvigionamento dei pezzi, quindi io continuo a incrociare le dita e a sperare che i casi siano bassissimi. Ma se la sua domanda è se ho capito che cosa hanno fatto il ministero e il comitato tecnico scientifico nel mese di maggio, nel mese di giugno, nel mese di aprile e anche nel mese di luglio, no, non l'ho ancora capito. Se era per arrivare alle mascherine, ai banchi che non ci sono e sostanzialmente alla misurazione della temperatura a casa. Ancora dunque, poi arriveremo. Qualcuno mi continua a chiedere la classifica. Guardate, la classifica degli sprechi tornerà. Abbiamo atteso perché, voglio dire, già le notizie non erano così entusiasmanti, non ci sembrava anche così un po' pesante inferire ulteriormente, ma tornerà la classifica degli sprechi adesso. Tanto non manca certo il materiale. Oggi non voglio fare una classifica degli sprechi, però voglio ricordare quello che è stato scoperto sui furbetti o i ladri, come li chiamo io, di reddito di cittadinanza, che non vuol dire, lo dico subito, rimettere in discussione la misura che ho sempre difeso quanto misura di welfare, quindi di lotta alla povertà cronicizzata nel paese, e continuo invece a non capire come misura di politica attiva sul lavoro, perché il lavoro non si crea con Navigator e non si crea con questi centri per l'impiego, si crea in altro modo, si crea agevolando gli investimenti delle imprese in capitale umano, magari anche con una decontribuzione, e agevolando gli investimenti nel nostro mezzogiorno e nelle aree più depresse. Però vale la pena ricordare, vista la polemica che c'è stata per i fratelli bianchi, in realtà poi il reddito di cittadinanza lo prendevano i loro genitori, ciò nonostante è arrivata la confisca dei beni, ma a che punto siamo sia sulla distribuzione del reddito sia sulle truffe scoperte. Però andiamo in ordine, andiamo con ordine. Allora, per quello che riguarda la borsa, oggi la giornata è negativa a Milano dello 0,90%, Parigi meno 1, Francoforte meno 0,30%, Dow Jones meno 0,20%, Londra meno 0,40%, bene di Assorin più 5,80%, di nuovo le notizie sul test che abbiamo riferito anche noi, Banca Mediolanum più 2,20%, come Inuit, Nexi più 1,70%, Interpump più 1,30%, ricordati più 1,1%, fronte opposto B per meno 3,30% come Leonardo e Fiat Chrysler, il 3% lo perde Atlantia, il 2,70% Unicredit, il 2,5% Exor, il 2,20% il calo di Telecom, Eni, CNH e Tenaris. Allora, intanto in Israele, parlavamo prima di Londra, è iniziato il lockdown nazionale di almeno 3 settimane dopo il picco di contagi nell'ultimo mese. In Gran Bretagna il ministro della salute non esclude un altro lockdown nazionale, pur definendolo l'ultima linea di difesa. Da martedì comunque la stretta, sono misure che, ripeto, rispetto al nostro lockdown sono ancora molto più morbide, nulla a che vedere con quello che abbiamo fatto noi. Salirà comunque a 15 milioni il totale delle persone coinvolte da martedì prossimo nelle restrizioni del lockdown parziale locale in varie zone del regno. Per quello che riguarda sempre i temi, in questo caso di carattere farmaceutico, la Commissione Europea ha formalizzato l'accordo con Sanofi e GSK per acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dalla joint venture, dalla casa farmaceutica francese e il partner britannico. La Commissione ha firmato anche un contratto dello stesso tipo con AstraZeneca e continua i colloqui per formalizzare accordi con altre 4 compagnie che sono Johnson & Johnson, CureVac, Moderna e BioNTech. Sul fronte internazionale, sul fronte del commercio internazionale, tra i 100 prodotti alimentari europei che godranno di uno status particolare di tutela in Cina, come previsto dall'accordo firmato il 14 settembre tra Cina e Unione Europea sulle indicazioni geografiche protette, l'IGP, 26 sono prodotti italiani. La cosa importante è che è il numero più elevato di qualunque altro paese dell'Unione Europea. Lo status protetto in Cina prevede che i nomi e le descrizioni dei 100 prodotti europei selezionati non possono essere sfruttati da merci simili. Praticamente l'Italia ha prodotto 57 miliardi di euro di prodotti agricoli soltanto lo scorso anno, e tra i prodotti protetti italiani troviamo l'aceto balsamico di Modena, il formaggio asiago, l'Asti, il Barbaresco, il Bardolino Superiore, il Barolo, il Bracchetto d'Acqui, la Bresaola della Valtellina, il Brunello di Montalcino, il Chianti, il Conegliano, il Valdobbiadene Prosecco, il Dolceto d'Alba, il Franciacorta, la Gorgonzola, la Grana Padano, la Grappa, il Monte Pulciano d'Abruzzo, la mozzarella di bufala campana, il parmigiano reggiano, il pecorino romano, il prosciutto di Parma, il prosciutto San Daniele, il vino Soave, il formaggio Taleggio e il vino nobile di Monte Pulciano. Mi sta venendo una fame boia e mi sento anche un po' ubriaco, però al di là della battuta è importante che l'Italia abbia il maggior numero di prodotti protetti in Cina, nel mercato cinese. Veniamo all'Italia. Allora, intanto le richieste di prestiti al fondo di garanzia sono salite a 81,5 miliardi per 1.082.000 domande, di cui la stragrande maggioranza, 888.000 domande, per prestiti fino a 30.000 euro, che valgono però una fetta minore, 17,5 miliardi. Gli altri, sostanzialmente 63 miliardi, valgono per le domande sopra i 30.000 euro, e quindi per quello che riguarda le domande fino a 800.000 euro e poi le domande fino al 5 milioni, in cui il 90% è l'importo garantito. Continuiamo a fotografare l'andamento dell'industria italiana. Allora, gli ordinativi a luglio crescono del 3,7% e negli ultimi tre mesi hanno recuperato il 15%, però il dato è sempre negativo se si guarda l'anno prima. Meno 7% gli ordinativi, sia quelli interni che quelli che arrivano dall'estero. Per quello che riguarda il fatturato, anche qui c'è una crescita, un recupero a luglio su giugno, più 8%, con un più 11% complessivamente di crescita del fatturato dell'industria nel secondo trimestre sui primi tre mesi. Però attenzione, perché si è ancora un meno 7,7% nel fatturato dell'industria rispetto a luglio del 2019. La buona notizia riguarda l'industria italiana della sanità, non solo quella farmaceutica, ma anche quella farmaceutica, che con 50 miliardi di euro di fatturato, il dato era pre-Covid, ma è uno dei pochi casi in cui il post-Covid dovrebbe avere un fatturato più alto del pre-Covid, chiaramente industria legata alla sanità e farmaceutica, tant'è che noi siamo leader con 50 miliardi di fatturato nei paesi europei, con l'80% della produzione che viene esportato e il 70% degli occupati che lavora in imprese con oltre 250 addetti. Dal mercato del lavoro invece le fonti sono sempre tante, perché abbiamo l'Istat, abbiamo l'INPS, oggi c'è la nota congiunturale prodotta da Istat, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL. Allora, resta come titolo e come sintesi un'eccezionale contrazione degli occupati nel secondo trimestre del 2020. E resta anche il fatto che vi siano state meno cessazioni di lavoro, ma un po' perché si sono ridotti i contratti e un po' perché c'è il blocco dei licenziamenti. E c'è stato un crollo dei mini contratti sotto i 7 giorni, oltre un milione di contratti in meno a tempo determinato nel privato nel secondo trimestre, considerando anche il lavoro in somministrazione e quello intermittente. Noi sappiamo che buona parte di questo crollo dei lavori a tempo determinato è dovuto ai lavori stagionali, oltre che al non rinnovo di alcuni contratti che hanno in scadenza, anche alla mancata attivazione dei contratti a tempo tipici del settore dei servizi nel turismo. E lo dicevamo anche nei giorni scorsi, quindi tutti i contratti di stagionali nel settore alberghiero, nella ristorazione, nel settore e nei servizi accessori del turismo non sono stati, o meglio, sono stati attivati ma molto meno. Ecco, il totale fa 1 milione in meno di contratti a tempo nel settore privato. Invece si è aperto uno scontro tra l'accordo di tutela dei riders siglato nei giorni scorsi tra Asso Delivery a cui aderiscono i principali soggetti, ne abbiamo parlato, Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats, con il sindacato UGL. Il ministro del lavoro Nunzia Catalfo infatti ha inviato ad Asso Delivery una serie di rilievi di legittimità sul contratto firmato. Ci saranno scioperi e vertenze sindacali se non verrà rivisto. Questo minacciano CGL, CISL e UIL, che hanno chiesto al ministro del lavoro di convocare un tavolo presso il ministero. L'intesa prevedeva anche un compenso minimo e l'introduzione di una copertura assicurativa per i riders, ma i sindacati denunciano la mancanza di ferie, malattie, maternità, tredicesima e di garanzia su licenziamento e collaborazioni occasionali. Ascoltiamo Danilo Morini della FILT CGL nazionale al microfono della nostra Anna Marino. Un rilievo di metodo e due sostanziali di merito. Il rilievo di metodo è che il 28 era convocata in accordo con UGL, in accordo con Asso Delivery, il Ministero del Lavoro, CGL, CISL e UIL e le associazioni dei rider, la seconda riunione al Ministero del Lavoro per andare avanti nella discussione su quale soluzione dare al contratto per i rider, e Asso Delivery inopinatamente ha fatto una trattativa parallela con un'organizzazione sindacale non rappresentativa per avere un contratto come quello che è uscito. Quello che è uscito è un contratto di comodo. Il lavoratore rimane, anzi viene codificato come lavoratore autonomo, che sarà un collaboratore fino a 5.000 euro occasionale e che diventerà un partita IVA oltre i 25.000 euro con tutti gli oneri a carico suo. Gli elementi retributivi e di maggiorazioni e di tutele assicurative INAIL erano elementi già previsti dalla legge a partire da novembre. Come si dovrebbe fare adesso? Intanto c'è un dubbio di legittimità su quel contratto, della terza obiezione, è lo stesso dubbio che ha avanzato il Ministero con la lettera di ieri. La legge rimanda a un contratto fatto tra le parti nazionalmente maggiormente rappresentative, sia datoriali che sindacali. Qui una delle due parti non è rappresentativa, quindi firma un contratto a perdere una parte non rappresentativa e quindi non dovrebbe essere giuridicamente valido e dovrebbe essere applicata la legge. Cosa si dovrebbe fare? Esiste già un contratto con la figura dei rider, è quello del merci logistica, e quindi intanto applicare quello, intanto che non viene sostituito o affiancato da qualcos'altro. La replica invece di Asso Delivery, il presidente Matteo Sarzana dice vabbè, siamo aperti ai rilievi ma andiamo avanti, sempre a microfono la nostra Anna Marino. Il contratto che abbiamo sottoscritto è frutto di un percorso complesso che secondo noi ha avuto un esito positivo per tutto il settore, in quanto è in grado di ampliare le tutele dei lavoratori del settore del food delivery, frutto di un lavoro che è stato svolto con rigore nel solco proprio del decreto rider, la recente normativa che è stata fortemente voluta proprio dal Ministero del Lavoro. E fermo restando l'autonomia delle prestazioni dei rider, ribadiamo e confermiamo la piena disponibilità con il Ministero del Lavoro, dal quale abbiamo ricevuto osservazioni e un atteggiamento però di collaborazione. Il contratto sarebbe operativo da novembre, lo applicherete? Dal 3 novembre sì, lo applicheremo. Quali sono appunto le risposte rispetto ai rilievi anche dei sindacati? Confermiamo in questo momento la nostra apertura sia verso i rilievi che sono stati fatti dal Ministro del Lavoro che a tutti i sindacati che volessero aderire. I due rilievi che sono stati fatti sono rilievi di merito che riguardano poi un approfondimento di carattere legale. Noi abbiamo avviato le trattative con le rappresentanze sindacali che ci hanno fatto formale richiesta di trattativa ai sensi dell'articolo inserito nel decreto dal Ministero del Lavoro. Adesso che cosa farà? Quali sono i prossimi passi? Il passo che noi stiamo facendo è in primo luogo quello di spiegare la grandissima novità e i rilievi che questo contratto porta. È il primo contratto nazionale per i rider in Europa, è la prima volta che la contrattazione collettiva raggiunge gli autonomi. Abbiamo inserito all'interno del contratto compensi minimi e tutele i diritti, cosa che non era mai accaduta prima. Vedremo come si risolverà e la convocazione anche al Ministero. Adesso andiamo, un'ultima notizia riguarda il mondo degli aeroporti, perché se il Ministro De Micheli oggi ha previsto che il ritorno del traffico aeroportuale ai livelli del 2019, cioè di 191 milioni di passeggeri in tutta Italia, non si vedrà prima della fine del 2023. Oggi è arrivata la richiesta di della CGIL e della società che gestisce per esempio lo scalo di Bergamo, dove a luglio si segnala un calo del 63% dei voli e ad agosto del 50% dei voli e del 66% dei passeggeri, con previsioni per ottobre e novembre abbastanza fosche, meno 60% dei movimenti, quindi dei voli, e 70% in meno dei passeggeri. E la CGIL Fit di Bergamo chiede di sostenere il settore dell'handling e di tutto il comparto aeroportuale. E l'ultima notizia invece riguarda la borsa italiana. Il London Stock Exchange Group, che controlla la borsa italiana, è in trattativa esclusiva con Euronext. Ne abbiamo parlato, c'è una gara di diversi soggetti per trattare sulla vendita di borsa italiana. E l'aggregazione proposta tra borsa italiana ed Euronext creerebbe un operatore leader nei mercati di capitali. Lo si legge in una nota di Euronext CDP, perché c'è appunto anche la parte della cassa depositi e prestiti. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Andiamo adesso sul meteo, poi una breve chiosa e parentesi sui i ladri di reddito di cittadinanza, lo stato di salute delle società calcistiche e chiaramente alla rete unica, e poi l'uccellaccio Sapelli. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Arriveremo al reddito di cittadinanza, vedo molti messaggi su questo, ma senza fare, diciamo, demagogia populistica, solo per capire che cosa non funziona delle volte. Però prima di tutto vorrei, visto che al di là delle grandi dichiarazioni di intenti, investire sul digitale, digitalizzare il paese, le infrastrutture, poi occorre far precipitare le cose, ecco, la partita sulla digitalizzazione del paese, che riguarda il 20% degli investimenti del Recovery Fund, come specificato da Bruxelles, si gioca anche sulla rete unica, cioè su che cosa deve entrare nelle case degli italiani. Lo dico perché il fondo australiano Macquarie ha offerto ieri all'Enel 2 miliardi e 650 milioni di euro per prendere il 50% di Open Fiber, che è la società costituita a fine 2015 dall'Enel per accelerare la copertura della rete. Nel frattempo però il Ministero dell'Economia e Finanze e il Governo spingono per creare un'unica infrastruttura, e infatti abbiamo raccontato dell'operazione di FiberCorp, che metterebbe assieme Open Fiber con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'obiettivo di integrare anche TIM. Resta sullo sfondo l'incognita dell'antitrust, ma mentre l'antitrust ci deve far sapere che cosa antitrust europeo, FiberCop dovrebbe avere il 58% di TIM, il 4,5% di Fastweb e il 37% di KKR, mentre la Cassa Depositi e Prestiti entra in TIM con il 9,8%, è già in TIM, e invece poi l'ingresso in Open Fiber col 50%. Andrea Biondi, la partita è molto complicata del Sole 24 Ore, ma l'ingresso di un fondo australiano, siccome è sullo sfondo il tema è sicurezza strategica del paese da un lato, ma anche possibilità di avere una rete unica che vada a collegare tutto il paese, soprattutto le zone, diciamo, più disagevoli, come complica, tra virgolette, la vicenda, Andrea? Buonasera Sebastiano, sì, da una parte complica, da una parte invece rende, diciamo, forse più semplice, più agevole il passaggio. Complica sicuramente nel senso che, come dicevi tu, Macquarie ha offerto i 2,65 miliardi per il 50% che Enel detiene in Open Fiber. Quindi questo, come dire, pone una valutazione di un asset, quello di Open Fiber, che alla fine è in grado di spostare in alto, di tarare attorno a sé tutte le altre valutazioni che devono essere fatte in questa partita complicata per arrivare alla rete unica, di cui, come dicevi, è stato fatto un primo passaggio, cioè la nascita di FiberCop, questa società in seno a TIM, che al cui interno c'è la cosiddetta rete secondaria, cioè la parte che dagli armadietti va alle case, e in questa società TIM ha il 58%, Fastweb, che con TIM aveva Flash Fiber, quindi stava facendo un'operazione di cablatura del paese, il 4,5%, e KKR, il fondo, il 37,5%. Ora, il tema è questo dovrebbe essere il primo passo per poi arrivare al secondo passo, che è quello della rete unica, che è molto più complicato perché dovrebbe mettere insieme gli asset di TIM e di Open Fiber. Ora, l'arrivo di Macquarie nella partita potrebbe, come dicevo però, anche rendere più semplice la cosa, perché comunque un fondo infrastrutturale che può avere tutta la convenienza alla creazione di una società unica per la realizzazione delle infrastrutture, che chiaramente, essendo unica, ha, come dire, un valore intrinseco anche differente. Dal punto di vista industriale, la ratio della rete unica, anche se è contestata da più parti, anche da persone che sono all'interno dell'ambiente, come per esempio Franco Bernabé, la ratio della rete unica è quella di non disperdere investimenti, cioè dal momento che ci sono due società che stanno investendo per la cablatura del paese, da una parte TIM, dall'altra Open Fiber, mettere insieme le forze potrebbe significare non disperdere gli investimenti e aiutare l'Italia a coprire quel gap infrastrutturale digitale che ogni volta ci viene rinfacciato. Sì, tant'è che per esempio solo il 17,5% dei complessi scolastici è collegato in tecnologia FTTH, Fiber to the Home. Durante il lockdown le lezioni online, lo dico perché poi questa è una ricaduta immediata, sono state seguite solo da 3 ragazzi su 10. Vorrei capire una cosa. Così a logica uno dice, beh, invece che avere due società concorrenti che disperdono soldi e finanziamenti, visto che deve andare a cablare, a collegare il paese, meglio avere una società unica, come tu dicevi. Qual è l'obiezione della Commissione Europea? Perché la Vestager oggi ha detto, a noi ancora l'Italia non ha notificato nulla, dovremmo valutare se il soggetto è indipendente. Cioè la Vestager è preoccupata che poi vi sia una barriera alla concorrenza interna sui servizi offerti? Assolutamente sì, ma è anche la preoccupazione per esempio degli altri operatori che, come abbiamo scritto oggi sul Sole 24 Ore, si vedranno con la CDP proprio lunedì per tornare a parlare del dossier, perché, come dire, una società unica sa tanto, questa è l'obiezione che viene fatta dagli operatori, di monopolio, e quindi questo significherebbe ritornare al passato. Passato in cui, come dire, quando non c'è concorrenza infrastrutturale, chi è che spinge gli investimenti? La concorrenza infrastrutturale, invece, secondo la visione che viene sposata dagli operatori, ma anche da tanti altri, può in qualche modo essere la molla per far spendere nell'infrastrutturazione. Sì, e noi abbiamo visto che nel mondo delle telecomunicazioni, senza ombra di dubbio, la concorrenza ha fatto solo che bene, cioè da quando la vecchia SIP, poi Telecom, ha avuto concorrenti e li ha tuttora, beh, c'è stata una vera concorrenza su tariffe e quant'altro. Potrebbe essere risolto come, per concludere Andrea, perché è chiaro che la Vestager giustamente chiederà garanzie per tutti i soggetti e giustamente gli altri soggetti, da Vodafone a tutti gli altri operatori, Wind, vogliono avere la certezza che poi non vi sia, passatemi in termini, una corsia preferenziale dentro la corsia dei collegamenti digitali a favore, per esempio, di chi possiede la rete, per esempio TIM. Devo dire che gli operatori paventano anche un altro rischio, e non solo gli operatori, il fatto che questa operazione, se non dovesse andare in porto, potrebbe causare dei problemi anche nella misura in cui avrebbe nel frattempo bloccato, diciamo, quell'andamento dei piani del rollout che magari ha temporeggiato un pochino in attesa di capire che cosa si deve fare con la rete unica. Non passerà molto tempo, perché poi alla fine, come dire, le parti si sono date tempo fino sostanzialmente a fine marzo per capire se portare a termine e come portare a termine l'operazione. Però, come dire, è una partita su cui anche la politica si sta giocando tanto. Sì, sì, e vediamo poi come andrà anche l'incontro tra gli altri operatori della Cassa Depositi e Prestiti. Grazie anche ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Prima di arrivare ai temi alti, recovery, utilizzo dei soldi europei e anche, cioè, che Europa si sta delineando a partire dalla ridefinizione delle grandi metropoli. Domani, so che alcuni potranno interessare, ma noi seguiamo tutti gli argomenti, riparte la Serie A, riparte con gli stadi chiusi, vedremo cosa succederà. Non voglio sicuramente lanciarmi in voli pindarici sul campionato, c'è appunto già tutti convocati ogni giorno e la domenica, però riparte una Serie A che, se possibile, è ancora più fragile dal punto di vista finanziario. Dico se possibile perché già non è entrata, diciamo, nel Covid con una robusta struttura finanziaria, anzi tutt'altro. Poi però le cose sono anche peggiorate a partire dai diritti televisivi. La Serie A domani appunto parte con la stagione 2020-2021. L'inizio del campionato non arriva sotto i migliori auspici, infatti la Serie A, calcoli alla mano, perde 1 milione di euro al giorno. L'indebitamento lordo viaggia sui 4,5 miliardi, che era già insostenibile durante la pandemia, prima della pandemia, ma è peggiorato con il lockdown. Al 30 giugno, infatti, il deficit era pari a 275 milioni di euro, ma i bilanci sono peggiorati a causa dei mancati introiti provenienti dall'emergenza sanitaria. Beh, ci sono 90 milioni in meno per la chiusura degli stadi, ridotte entrate commerciali e poi la controversia sull'ultima rata dei diritti TV non versata da Sky, un deficit strutturale quindi che corre, se ho ben capito, verso i 350 milioni di euro. Marco Belinazzo del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, non è certo una novità che appunto già viaggiava con quasi 300 milioni, 275 milioni. L'indebitamento lordo viaggia sui 4,5 miliardi. Andiamo sulle notizie. Quanto è peggiorata la situazione con il lockdown, e adesso però che le partite, pur a stadi chiusi, ma magari il merchandising avrà meno danni su questo, ma si possono vedere, è pensabile un recupero? Beh, è necessario un piano straordinario che veda coinvolte tutte le componenti, la FIGC, le leghe, i club e anche le parti con le repubbliche, perché non è più, diciamo, sostenibile in quanto prima del lockdown, con una serie di operazioni magari straordinarie, in particolare sulle plusvalenze, si riusciva a colmare il gap tra le entrate e le uscite. Oggi anche il calciomercato di fatto è paralizzato, nessuno ha i soldi da spendere sul mercato e quindi l'altra voce con cui colmare il gap tra entrate e uscite è quella, diciamo, finanziaria, e quindi porta ad indebitarsi, e siamo già a 4,5 miliardi. Di fronte a una stagione che è assolutamente critica, probabilmente sarà più difficile dell'ultima. Il presidente della Juventus e dell'ECA, cioè l'associazione dei club europei, ha appunto appena detto che il calcio europeo perderà tra questa e la stagione appena chiusa circa 4 miliardi e molti di questi soldi li perderanno le principali leghe. Marco, ti faccio una domanda da neofita, diciamo. Ma vista la situazione del calcio italiano e anche i cali che avranno gli introiti del calcio europeo, com'è possibile continuare a pagare i giocatori? Cioè che il mercato dei giocatori, non sto facendo valutazione, adesso la Juve per l'uscita di Higuain avrà una perdita di 89 milioni di euro, cioè non solo per Higuain, ma insomma anche grazie a Higuain, perché genera un effetto negativo sull'esercizio 2019-2020 di 18 milioni di euro. Ma dico, non si nota però un calo, diciamo, in quello che è il costo del lavoro del giocatore, come si direbbe in economia? Allora, guarda, hai toccato quello che è il nervo scoperto, perché tu considera il fatto che il costo della rosa, cioè gli ingaggi che sono al lordo delle imposte per le società, più gli ammortamenti dei cartellini, cioè quanto paghi il cartellino di un giocatore e il cartellino poi spalmato in base agli anni di contratto. Ebbene, queste due voci, che quindi ti dicono sostanzialmente quanto ti costa quella rosa, assorbono circa l'85% di quello che è il ricavato strutturale che i club hanno da stadi, botteghini e TV. un'altra azienda sarebbe sostanzialmente fallita, posto che c'è un altro 1,5 miliardi di costi che devono sostenere. Allora, il tema qual è? Al momento si sta paralizzando il calciomercato, non ci sono tantissimi scambi, non si vedono più le cifre del passato. Il problema è che i contratti, soprattutto quelli con i giocatori più importanti, più onerosi, sono pluriennali, sono stati fatti per diversi anni e di conseguenza le società hanno sulle spalle questi carichi importanti, per cui è difficile, diciamo, se non magari tra 2 o 3 anni, quando questi contratti mediamente andranno ridiscussi, provare ad abbassarli. E allora lì vedremo se il sistema sarà capace, diciamo, di trovare un suo equilibrio, posto che non basterà agire sui costi, ma bisognerà agire sui ricavi. E in questo senso, appunto, sarà indispensabile utilizzare la leva delle riforme che in qualche modo in questi mesi sono state approvate. Ad esempio è stata approvata una norma nel decreto semplificazioni che ha eliminato tutti i vincoli di carattere architettonico, paesaggistico, sono stato caso eccezionale sugli stadi, e quindi fare gli stadi diventa in qualche modo più semplice ristrutturarli, e si spera, insomma, che al netto di speculazioni, che vanno ovviamente sempre condannate, sia più semplice avere impianti che ti possano rendere. Si deve lavorare sul piano dei diritti TV, e c'è anche l'idea del presidente della FIGC di cambiare il format, di far sì che il campionato non sia più quello che abbiamo conosciuto in tutti questi anni, ma abbia, diciamo, un po' un modello di carattere americano, con i playoff e le NBA, per dare di nuovo appeal al torneo, anche se in Italia poi, anziché pensare che questo possa dare più appeal a quel torneo, l'idea dei vari presidenti è che questa riforma possa essere fatta piuttosto che, appunto, per innovare, aumentare i cavi, per far sì che qualcuno perda e qualcuno vinca, magari qualcuno che vince sempre, insomma. Vabbè, dai, è troppo facile, ecco. Se pensiamo a chi vince sempre. Allora, grazie anche a Marco Belinazio, io tanto sapete cosa tifo, per cui non lo dirò stavolta. Invece vinca il migliore, e contento che parta comunque la Serie A, per quanto a porte chiuse, da domani. Adesso andiamo sul GR24, poi quello che abbiamo scoperto sui ladri di Reddito di Cittadinanza e l'uccellaccio Giulio Sapelli. Tutti i mercoledì a 2 di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Ma dal 23 settembre, tutti i mercoledì, parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti prima di arrivare all'uccellaccio e alla settimana tra la riapertura delle scuole, ma soprattutto per quello che ci riguarda la von der Leyen e il discorso sullo Stato dell'Unione, avevo promesso una breve parentesi sul reddito di cittadinanza. Come ricordava anche il GR nostro del 18, il caso è tornato per via dei fratelli bianchi, poi si è scoperto che erano i genitori del cosiddetto branco a percepirlo. Comunque 33.000 euro e la Guardia di Finanza ha chiesto i sequestri ai beni alle famiglie del branco, quindi famiglia Bianchi, Belleggia e Pincarelli. Molti ci hanno scritto su questo. Allora, vediamo di capirci. Il numero è vero che ci sono stati casi anche eclatanti. Faccio notare che nel 2019, o meglio martedì scorso, la Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto che percepivano il reddito 30 affiliati alla Sacra Corona Unita per un totale di 200.000 euro già incassati. 3 di loro erano riusciti a fare la domanda per il reddito dal carcere. Ora, io capisco, il carcere ha tanti difetti, però se c'è una cosa che ti garantisce è vitto e alloggio, no? Possiamo dirlo questo. A giugno 37 soggetti, tutti affiliati alla 'Ndrangheta, sono stati scovati tra i percettori del reddito senza averne diritto. È finita anche nella rete la cantante neomelodica Agatina Arena, 27 anni, di Catania, che ha percepito 700 euro al mese finché la polizia non ha scoperto il mini market abusivo che gestiva insieme a due familiari. Con i soldi del reddito avrebbe voluto incidere il suo primo album, però già si definiva cantante neomelodica, non ho capito, era già o no? No, allora non sto difendendo il reddito di cittadinanza tout court, l'ho sempre difeso come misura di welfare che va a integrare il reddito di inclusione del governo Gentiloni, che era stato fatto tardi e in maniera anche limitata, e quello a me convince perché è una forma di ammortizzatore sociale per situazioni in cui la povertà si è cronicizzata, non parlo neanche delle pensioni ma proprio del reddito, lavoratori che difficilmente potranno espulsi, che difficilmente potranno tornare nel mondo del lavoro. Cioè penso che uno Stato civile debba dare anche una soglia minima, no, di reddito a chi non ce la fa. Altra cosa è tutta la parte sul lavoro, che è un'emerita corazzata Potemkin per quello che mi riguarda, perché non servirà nulla né i 2000 Navigator né il ruolo ancora molto lasco dell'Agenzia per il Lavoro. Però una cosa va detta per essere precisi: è ovvio che fanno specie queste cose perché, e fanno anche rabbia. L'anno scorso, dunque, fino ad ora, visto che in 18 mesi di vita il reddito di cittadinanza supera 1.300.000 nuclei benefattori, cioè coinvolge 3 milioni di persone perché sono famiglie. Però in 18 mesi in tutto sono stati beccati di 12.000 casi, di cui 8.200 che hanno dichiarato il falso, e altre 3.000-4.000 famiglie segnalate dai comuni perché hanno mentito sulla composizione del reddito. Siamo sotto l'1% di chi lo riceve. Ancora, i controlli, visto che ce l'avete chiesto, sono di due tipi. Uno riguarda la domanda per il sussidio, l'INPS verifica se sussistono i requisiti di reddito, patrimonio immobiliare, e poi con l'incrocio con l'Agenzia delle Entrate, tant'è che 500.000 di domande sono state respinte o cancellate. Poi c'è quello successivo della Guardia di Finanza, che incrocia le banche dati, conti correnti. Attenzione, è vero che il problema è l'autocertificazione su molti documenti come l'ISE e la DSU, che deve accertare un reddito inferiore ai 9.360 euro, però si rischiano dai 2 ai 6 anni di carcere per dichiarazioni false o omissione di informazioni, da 1 a 3 anni se non si comunica con l'INPS entro 30 giorni le variazioni del patrimonio. Quindi nessuna difesa, ma attenzione anche ai numeri e al sensazionalismo. Detto questo, andiamo all'uccellaccio, che in questo periodo è quasi una colomba visto il clima. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera a lei. E bentornato. Bellissimo amico, anche sono lieto di vederla dall'alto. Allora, no, non voglio parlare di reddito, voglio parlare con lei della von der Leyen per il primo discorso sullo Stato dell'Unione, sì. E poi anche di una cosa che a me sembra mancare e mi è venuto in mente lei, perché lei ha scritto recentemente un saggio proprio sul ruolo futuro delle città, dell'urbe, nel suo rapporto con una volta si direbbe il contado, con... La campagna con il resto del territorio. Però questa settimana abbiamo visto il primo discorso, diciamo, sullo Stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen, dove la von der Leyen due cose ha detto: uno, occorrono nuove regole sui migranti e gli oneri devono essere condivisi, e poi ha confermato un recovery fund dove il 37% andrà per la trasformazione green, più sostenibile dell'economia, e un 20% per il digitale. Mi sembra che continui a esserci questa reinterpretazione dell'Europa, del ruolo dell'Europa, a mio avviso più positiva sicuramente rispetto al passato. Dunque, la ringrazio per porvi questa domanda, le risponderò sinteticamente. Sui migranti non v'è dubbio che è, almeno come enunciato, un enorme e importante cambiamento, se si trasformerà quella cosa gravissima che fu il Trattato di Dublino, e quindi si darà vita a una politica di condivisione di un processo che non può essere arrestato, ma solo governato. Mi auguro che non lo si faccia come si è cominciato a fare nell'isola di Lesbo, cioè costruendo dei grandi capannoni e dicendo che volevano suddividere i migranti nelle isole greche, gettando il panico e lo sconforto nei già poveri greci in grande difficoltà per l'assenza del turismo. In ogni caso, noi dobbiamo dare fiducia a chi domanda questa cosa. Quindi io sono felicissimo, perché sono sempre stato contrarissimo a questo trattato di Dublino. Bisognerà convincere i francesi, che mi paiono degli ossi molto duri, e soprattutto gli spagnoli. Ho letto stamattina su El País, sul Mundo e anche su Avanguardia, che è un giornale di opposizione e di orientamento diverso da quello laico universalistico dei primi due, che però hanno moltissimi, hanno già alzato le mani. Quindi ci sarà una dura battaglia. Mi auguro che coloro che capiscono che bisogna che lo Stato, ripeto, lo Stato e non il mercato, continui a occuparsi della migrazione, sia vincitrice. Perché se l'Unione interviene, vuol dire che interverrà lo Stato, come era una volta, come era fino agli anni 60-70 in Europa e nel mondo. Pensiamo solo ai ruoli dei nostri ministeri nelle agenzie che regolavano le migrazioni. Per quanto riguarda invece le altre due cose che lei dice, sono dei pannicelli caldi, perché vede, i danni strutturali che alcuni osservatori intelligentissimi hanno osservato, per esempio mi riferisco a un'intervista molto importante di Domenico Siniscalco che ha dato su Sky recentemente. I dati strutturali che sono venuti fuori dalla crisi post-Covid sono terribili. Perché? Perché si continua a curare una crisi strutturale con pannicelli caldi. Le faccio un esempio. La Federal Reserve ha garantito emissioni obbligazionarie delle corporation per 2,6 trilioni di dollari, mentre in Europa delle analisi molto serie di istituti tedeschi calcolano che circa 550.000 aziende, e un sesto del totale delle aziende tedesche, sono classificati zombie firm, cioè imprese zombie, in base alle metriche che abbiamo conosciuto già dalla nostra giovinezza della Banca dei Regolamenti Internazionali. Quindi cominciano a porsi i giornali tedeschi, underground per tutto, se l'autunno non porterà con sé un'andata di fallimenti nella prima economia dell'Eurozona. Non dimentichiamo poi che già il cosiddetto PSPP, voluto da Mario Draghi, le aziende francesi e tedesche avevano beneficiato della maggior parte dei finanziamenti, ma questo si continua a farlo anche nella versione anti-Covid. Ma non è così, non è di nuovo con una politica astratta come questo piano della von der Leyen. Mi spiace, bisogna fare degli investimenti, non delle pratiche sul green. Ho capito il suo punto, Sapelli. Ho il traffico, dopo il traffico le chiederò, va bene, è vero che il piano è anche molto retorico, Next EU Generation, però andando poi a fare il conto della massaia, almeno c'è un via libera e vedremo come poi sarà in grado il governo italiano di costruire un piano e una richiesta vera di fondi, concreta, però in cui si dice il 40% in tutto ciò che può rientrare in una maggiore sostenibilità, e sappiamo che il concetto è abbastanza lato, e un 20% nel digitale, quindi da una parte infrastrutture digitali, dall'altra infrastrutture più sostenibili. Mi sembra che sia un'occasione da non perdere in questo momento, però al di là di un po' di retorica che c'è sempre in questi discorsi, e sicuramente meglio dell'atteggiamento precedente, mi sembra invece che però nel dibattito italiano ma anche europeo sia scomparso il tema delle metropoli. Se riesce a darmi un doppio commento su questi due aspetti dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Focus Economia. Allora, professor Sapelli, due domande. La prima, al di là della retorica, Green Deal, Next Generation, però insomma almeno c'è un piano in cui l'Europa dice ai vari stati potrete accedere a questi soldi a fondo perduto o comunque finanziamenti molto agevolati stando in queste griglie. Insomma, fino a ieri l'unica griglia era quella del 3% del deficit e del debito da ridurre. E poi, se non ritiene che nel dibattito, anche diciamo così politico, sia scomparso il tema di cosa sta capitando alle metropoli, ma non solo Milano, vale per Roma, vale per Parigi, per Londra, per Francoforte, per Madrid, per Berlino, prego. Dunque, le rispondo brevissimamente ma seccamente. Le proposte enunciate dalla von der Leyen sono, come ho già detto tante volte, importantissime dal punto di vista culturale, perché si fondono finalmente sulla mutualizzazione del debito. Non posso chiamarle Eurobond, come volevamo chiamarli noi, inascoltati. Allora, lo sa, lentamente la pressione francese sulla Germania, che ha cominciato a sentire la pressione degli industriali, si comincia a far sentire. Non possono far morire la catena produttiva spagnola, italo e meridionale dell'Europa. Però, ripeto, queste misure sono tardive e sono insufficienti, è una goccia nel mare di quello che serve per rimettere in moto l'economia. Sono tardive e davanti a ciò è veramente incomprensibile come mai il governo, così come invece sta facendo il ministro Le Maire e il ministro dei conti pubblici, che hanno in Francia, hanno anche quello, che incominciano loro subito a tirare. Noi abbiamo circa più di 100 miliardi di avanzo di cassa tra il MES e la Banca d'Italia, e più abbiamo 90-100 miliardi di opere cantierizzate e non ancora spese per le infrastrutture, che non sono partite. Non c'è nessuna condizione che impedisca di farlo, c'è una volontà politica di non spendere, perché si vuole, c'è una volontà politica di creare una situazione per cui la ristrutturazione del debito verrà fatta dall'alto e non dalle forze della borghesia nazionale. La borghesia venditora ha vinto, cioè quelle forze che sono eterodirette che sono economiche, ma soprattutto sono politico-parlamentari, perché tra i parlamentari e politici governati dalla Cina e da potenze franco-tedesche o di tipo estere, sono quelle che controllano la nostra legiferazione, ed è per questo che essa è convulsa, contraddittoria, in attesa di mediazioni, perché non c'è un dibattito politico. Quindi questo è quello che penso. Si sta perdendo tempo e la von der Leyen è un passo avanti culturale, ma assolutamente inadeguato dal punto di vista economico strutturale. Se continuiamo, e poi c'è una roba terribile, il salario minimo. Il salario minimo vuol dire fare di una politica assistenzialistica una politica europea alla faccia del contratto e della discussione che stiamo facendo sui regimi contrattuali. Quindi è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Vuole che le dica qualcosa sulle metropoli? Sì, perché mi sembra che siano sparite dal dibattito, cioè sento parlare di smart working come se fosse una cosa alla leggera, cambiare quello che è sempre stato, lo scrive lei stesso, lo snodo di ogni forma di modernizzazione e di passaggio storico è sempre passato per il ruolo che doveva esercitare la città, l'urbe, insomma le mura. Sono perfettamente d'accordo con lei, invece noi adesso abbiamo creato, grazie alla finanziarizzazione immobiliaristica della città e alla segregazione sociale che in tutto il mondo si è creato, le città non sono più agorà, tanto le città quanto le metropoli sudamericane, nordamericane ed asiatiche, perché questa è la differenza fondamentale tra Europa e altri mondi. In Europa abbiamo più città che metropoli, negli altri mondi abbiamo più metropoli che città, le città sono molto più piccole delle nostre. Però vede, quello che è necessario, se non vogliamo, è che gran parte delle città e delle metropoli sono fondate sulla segregazione sociale. Quanto pensa che potranno durare la segregazione nelle banlieue francesi o nelle favelas dell'America Latina? Oppure come, e poi c'è il grande problema del cambiamento climatico. Giacarta sta sprofondando nelle acque. Quindi ci sono anche temi, la città deve ridiventare un tempo di liberazione, ma non è facendo quelle robe orribili che rischiano di creare morti e feriti. Bisogna per eliminare le macchine, perché c'è da tenere conto. I monopattini, sapendo. Ecco, i monopattini, che è una cosa pazzesca che serve solo a certi gruppi di lobby, no? Ma lei si rende conto che noi abbiamo delle città che devono tornare ad essere dei luoghi di produzione naturalmente, di l'economia circolare deve unire in una nuova alleanza città e contado secondo i principi dell'economia circolare. Io dico anche dell'economia morale. Per esempio, bisogna ritornare al fatto che gran parte del patrimonio abitativo devono essere housing sociali, patrimonio pubblico dei comuni, come in gran parte dell'Europa e era anche un tempo anche in gran parte di alcune importantissime città nordamericane. Il dibattito finora è solo tra gli intellettuali, deve diventare, e ha ragione lei, è bellissimo se lei potesse iniziare a farlo. Io ho scritto questo saggio per la rivista Equilibri della Fondazione Eni Enrico Mattei, proprio perché facciamo un numero sulle città, la sostenibilità economica, il cambiamento climatico, perché vogliamo cominciare un dibattito su questi temi. Sì, che ripeto, io ho visto per esempio il sindaco Sala criticato per alcune cose, per alcuni temi li pone, e lasciamo stare come è uscita la cosa, cioè, no, io continuo a pensare che dire benissimo c'è un nuovo modello così preso in maniera apodittica, senza un contraltare, senza un'analisi dei danni creerà, mi sembra sbagliato. Sul fatto invece vengo alla sua prima valutazione, qualcuno mi dice ma lei non contesta Sapelli, adesso fatemi commentare. Io perché devi contestare Sapelli? No, non è che devo, io contesto tutto. Vabbè, perché non ti pagano se non ti contesti? Non mi pagano mai, anche se contesto. Allora, ecco, perché allora, ma come ci fai? Allora, no, aspetti un attimo, professore. Io temo, ma che più che una voglia di non fare dovuta, diciamo, a un piano altro, o estero diretto, o etero diretto, io temo che la mancanza di visione sia un po' come il coraggio del Manzoni, cioè se tu non ce l'avevi, se tu non hai un modello di paese di dove puntiamo i soldi del recovery fund e su quali settori ci concentriamo, le infrastrutture in primis, scuole, ospedali, alta velocità, autostrade e quant'altro, e anche autostrade digitali, è per quello che poi resti sul generico. Mi riferisco all'attesa spasmodica che ho nei confronti del piano del governo. Mi dica in una battuta, Sapelli, lei teme un peggioramento anche economico nei prossimi mesi oppure no? Gliel'ho già detto, temo soprattutto un peggioramento economico in Germania e in Francia, perché ricordiamoci bene, la Germania, come se la Francia è il cuore politico dell'Europa, la Germania è il cuore economico. Quindi il problema è se la Germania tiene. Noi teniamo perché abbiamo le piccole e medie imprese, che però soprattutto le medie e le piccole, sono soprattutto quest'ultime, mi scusi la ripetizione, sono state non sostenute, perché non si sostengono le imprese coi bonus, si sostengono facendo dei lavori pubblici, mettendo a posto le autostrade, facendo la manutenzione, la piccola manutenzione della città, cioè facendo tutto il contrario di quello che abbiamo fatto con l'elicotter money, cioè con questi soldi dati a pioggia che devono finire. Bisogna di nuovo rimettere in moto quello che crea l'occupazione. Cos'è? Il profitto capitalistico, non la rendita fondiaria o la rendita degli inattivi, perché questi si rende conto che noi abbiamo circa 8 milioni di inattivi, non strutturali, cioè pensionati, cioè gente che non cerca e non trova lavoro. È una situazione, ma lei la vede la gioventù che sgavazza tutte le sere? Ma lei vede la movida? Ma questo è un dramma, questo vuol dire che non si devono alzare per andare a lavorare, neanche a studiare, bisognerebbe chiudere gli esercizi pubblici alle 10 di sera. Questa è la vera proposta economica. Sapelli, adesso vada via e voli via, devo dire c'è poco da ridere, perché ahimè la Gran Bretagna nel lockdown che ha annunciato per 12 milioni di persone prevede proprio la chiusura dei pub e dei ristoranti alle 10 di sera, che non è neanche così male visto l'orario in cui immagino gli inglesi. Grazie anche a Giulio Sapelli, grazie a Barbara Bianchi e a Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione e in regia anche questa settimana. Noi ci risentiamo lunedì, lo speciale di Radio 24 inizia alle 15 per commentare il referendum e il risultato delle regionali, e entrerà, diciamo, anche dentro Focus Economia. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.